si fa, Carbone, nome, una garanzia. Assolutamente, ma noi non possiamo mai fare danni. Certo. Quante soddisfazioni mi dai? Ecco, se poi anche perdessi qualche chilo sarebbe bello. Qui, oltre ad una pacca sulla spalla, naturalmente speriamo anche di fornire indicazioni pratiche e concrete. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Insomma, immagino che i nostri amici, gli amici di Cuore Denari, si immaginassero che cominciavamo una puntata con questa colonna sonora. La notizia è arrivata proprio a ridosso dell'apertura delle borse europee, l'avete sentito anche nei nostri giornali di radio. Dopo un weekend di trattative estenuanti che hanno più volte fatto temere il peggio, l'Euro Summit ha raggiunto un accordo unanime sulla Grecia. L'accordo è arrivato, vi dicevo, sul filo di lana, dopo oltre 30 ore di riunioni fra quella dei ministri finanziari e quella dei capi di Stato e di Governo della zona euro, un accordo che è stato definito laborioso, ma non ci sarà la Grexit. In cambio, come è noto, perché questo è stato il punto più controverso delle trattative, fra domani e mercoledì il Parlamento greco dovrà legiferare su vari aspetti concordati per ottenere poi questo piano di sostegno, un nuovo salvataggio che vale almeno 86 miliardi di euro. Naturalmente a Cuore Denari interessano le prospettive per i risparmiatori che nelle ultime settimane si sono cimentati con borse molto volatili e scenari confusi. Cosa dobbiamo aspettarci ora? Ce lo chiederemo tra poco. Intanto, se siete nella veste del risparmiatore confuso con questa fase, raccontatecelo all'800240024. E allora faremo luce su che cosa capita per i piccoli risparmiatori, e di luce parleremo anche nella seconda parte della trasmissione, cambiando radicalmente tema. Al mare, in montagna, in città, al lago, in vacanza o al lavoro, proteggiamo i nostri occhi. Da soli non ce la possono fare, ogni anno lo sappiamo, arriva puntuale la raccomandazione degli oculisti che, alla stessa stregua dei dermatologi per la pelle, ci invitano a riparare i nostri occhi dal sole, perché è ormai provato che la mancanza di protezione produce danni nel breve e nel lungo periodo. Allora 800 24 00 24, un numero che vi invito caldamente a chiamare se vi dà fastidio alla luce, se al mattino gli occhi vi bruciano, se sono rossi, se avete preso un colpo d'aria e una venuzza si è rotta. Chiamateci anche se usate collirio e lacrime artificiali per dare un po' sollievo ai vostri occhi, e soprattutto occhi aperti e orecchie ben attente, perché Deborah ci aiuterà adesso a vederci più chiaro. In this compromise, because it's a compromise, there are no winners and no losers. I don't think that the Greek people has been humiliated, and I don't think that the other Europeans were losing their face. It's a typical European arrangement. Questa era la voce di Jean-Claude Juncker, come avete sentito, che parla di questo compromesso, perché di compromesso si tratta, che è stato raggiunto fra Bruxelles e la Grecia. Non è stato, lui sostiene, un accordo umiliante per i greci. Nicola Borzi del Sole 24 Ore, buongiorno intanto. Buongiorno. Vi presento il primo ospite che ci farà compagnia questa mattina, insieme anche a Manuela D'Onofrio, responsabile della ricerca di Unicredit, della direzione investimenti del private banking del gruppo Unicredit. Dottoressa D'Onofrio, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. E saluto anche Giovanni Brambilla, direttore investimenti di Acome ASGR. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Un pool di ospiti questa mattina per spiegarci intanto questo effetto sui mercati finanziari che stiamo vedendo dopo l'accordo raggiunto proprio nelle prime ore della giornata, a ridosso dell'apertura dei mercati finanziari, perché davvero i termini sono stati comunicati non appena stavano luccicando le prime fibrillazioni appunto dell'apertura della seduta sulla borsa europea. Che intanto vi indico come stanno andando le cose. Parigi sta salendo di 2 punti, Francoforte Firenze più 1,59%, Londra più 0,6%, Milano più 1,66%. C'è chi ipotizzava un balzo più consistente, c'è da ricordare che però già venerdì la borsa era cresciuta molto perché c'era già stata l'assoluta convinzione da parte degli operatori, che poi avevano un po' perso le speranze però nel fine settimana, che questo accordo si trovasse, per cui già il mercato aveva un po' anticipato e digerito queste notizie. Volevo però cominciare, visto che abbiamo detto che faremo una puntata come sempre alla Cuore Denari con una prospettiva per il piccolo risparmiatore che ora si chiede che cosa devo fare, che cosa mi devo aspettare quest'estate a prescindere dalla vacanza, il portarsi il contante famoso di Nicoletta perché andrà a fare la vacanza in Grecia, ma soprattutto lo abbiamo definitivamente archiviato adesso il problema greco. Stiamo tranquilli. Quali altri fattori di rischio sono dietro l'angolo? Se ci sono, dobbiamo appunto metterci in testa che comunque non possiamo abbassare la guardia. Nicola Borsi, volevo cominciare con te perché sono le 24 ore questa mattina in edicola con un super speciale sulla questione greca e naturalmente vi occupate anche proprio del risparmiatore con la consueta bussola del risparmiatore che si intitola Come dribblare, investire dribblando Atene e Shanghai. Che tipo di suggerimenti avete dato? Ma noi crediamo che la situazione in questo momento abbia trovato, come dire, una pausa, ma che la soluzione definitiva di questo problema sia di là da venire, e quindi prevediamo, e ce lo dicono anche degli indicatori importanti come l'indice V-Stoxx che misura la volatilità implicita delle principali azioni europee, che questa fase sarà dominata ancora per qualche tempo da una volatilità molto accentuata dei mercati azionari, anche perché la Grecia, come abbiamo spiegato, non è l'unico fattore che in questo momento sta tenendo col fiato sospeso i mercati, ci sono anche altre situazioni come in particolare quella del mercato cinese. Crediamo anche che il risparmiatore, come sempre in questi casi, debba agire secondo un'ottica di razionalità, e in quest'ottica di razionalità la prima cosa da evitare sono gli accessi di panico, perché non portano da nessuna parte. I colpi di testa. Esatto. E oltre a quelli di sole, che magari fanno male agli occhi, come vi racconteremo nella seconda parte del programma. Manuela D'Onofrio, un commento a caldo sull'accordo raggiunto appunto all'alba. Dobbiamo crederci o salteranno fuori altre condizioni che nei prossimi giorni rimetteranno tutti in discussione, perché i punti veramente delle riforme chieste a Tsipras hanno dell'incredibile per certi versi. Si chiede tanto, quella che a me ha colpito più di tutti, la riforma del codice civile nel giro di 2 giorni, probabilmente già scritta, per cui Bruxelles avrà consegnato un documento da approvare a scatola chiusa, un po' come era successo con il governo Monti e le pensioni e la riforma delle pensioni chiesta nella famosa lettera della BCE del 5 agosto del 2011, perché molti aspetti di queste trattative ricordano anche quelle che si consumarono tra l'Italia e Bruxelles in quell'estate calda per quello che riguarda il nostro paese. Ma dottoressa D'Onofrio, lei ci crede? Sì, ci credo, ed in realtà ci abbiamo sempre creduto che un accordo sarebbe stato raggiunto all'ultimo minuto dell'ultima ora. In questo caso devo dire siamo anche andati oltre, ci abbiamo sempre creduto, tant'è vero che dall'inizio dell'anno abbiamo mantenuto un'esposizione all'azionario europeo molto importante, questo proprio perché non abbiamo mai ritenuto come scenario più probabile quello di un'uscita della Grecia. Naturalmente la storia ci ha sempre insegnato che i debitori perdono la sovranità, e devo dire che questo ultimo periodo, questi ultimi 4 anni qui in Europa non ha fatto altro che dimostrare questa tristissima verità. Quindi crediamo che alla fine la Grecia rimarrà nell'eurozona e che anzi nei prossimi direi anni vedremo un'accelerazione verso una ulteriore integrazione dell'eurozona, che non sarà più solo ed esclusivamente un'unione monetaria, ma che alla fine arriverà ad avere veramente la configurazione, diciamo così, degli Stati Uniti di Europa, quindi con una centralizzazione sempre più marcata della politica fiscale e chissà, forse un giorno anche l'emissione di Eurobond. La reazione dei mercati di stamattina che cosa ci suggerisce? Abbiamo un quadro ampiamente positivo dopo l'altalena che abbiamo visto nelle ultime 2 settimane, soprattutto la reazione estremamente negativa che i mercati avevano registrato quando Tsipras aveva detto: io vado al referendum e chiedo al popolo greco di sostenermi in questa battaglia con Bruxelles. Poi il clima si è notevolmente rasserenato, lo spread fra BTP e Bund stamattina è intorno ai 120 punti base, mentre le borse sono tutte positive, come dicevo appunto in apertura. Dottoressa D'Onofrio, la sua lettura sull'andamento dei mercati di oggi qual è? Ma in parte la positività era già stata scontata venerdì, ci sono stati dei rialzi consistenti sulle borse europee, anche lo spread in realtà, anche il lunedì stesso seguente all'annuncio sorpresa di Tsipras appunto del referendum, lo spread non era mai andato oltre livelli che si possono quantificare intorno ai 160-170 basis point, quindi questo significa che di fondo il mercato ha sempre ritenuto poco probabile lo scenario di Brexit e comunque ha sempre pensato che nell'eventualità peggiore di una uscita appunto della Grecia dall'Eurozona comunque la Banca Centrale Europea sarebbe intervenuta con tutti gli strumenti che ha a disposizione per evitare un effetto contagio. Quindi adesso il mercato secondo noi si può concentrare nuovamente sui fondamentali e la cosa più importante da qui ai prossimi mesi è capire come la Federal Reserve intende attuare questo processo di normalizzazione della politica monetaria. A proposito di questo, vi leggo una notizia che lampeggia adesso dai terminali delle agenzie. Il mercato obbligazionario greco festeggia l'accordo dell'Euro Summit sulla Grecia, il rendimento dei titoli di Stato decennali ellenici sul mercato secondario si attesta in mattinata all'11,9% contro il 13,5% di venerdì scorso. I bund scambiano allo 0,93%, i bonus spagnoli al 2,15%, in linea con i BTP italiani al 2,14%. Quindi già non riguarda la Federal Reserve e le manovre dei tassi di interesse americani, dottoressa D'Onofrio, ma effettivamente forse questo è il segnale più importante di una distensione sul mercato. Sì, assolutamente sì, tenga presente che qualora appunto la situazione dovesse evolvere per il meglio per la Grecia, ad un certo punto la Banca Centrale Europea potrà anche cominciare a comprare le obbligazioni greche, quindi non dobbiamo pensare che la situazione si fermi qui, quindi se la situazione dovesse migliorare come noi pensiamo, il restringimento dello spread non solo sulla Grecia ma anche sugli altri periferici potrebbe proseguire. Più o meno nel mese di marzo lo spread Italia-Germania era sceso addirittura sotto il punto percentuale, quindi è uno scenario assolutamente plausibile. Potremmo avere appunto una situazione in cui i rendimenti dei titoli di Stato americani e dei titoli di Stato tedeschi nei prossimi mesi continueranno a salire, mentre in realtà i rendimenti dei paesi periferici come Italia e Spagna potrebbero stabilizzarsi. In questo scenario sul mercato obbligazionario per i piccoli risparmiatori che guardano a questa asset class, come la definiamo in gergo finanziario, no? Che tipo di precauzioni devono adottare per un investimento che sia chiaramente adeguato alle proprie caratteristiche di investitore e risparmiatore, dottoressa D'Onofrio, ma alla luce anche di tutti questi fattori e la turbolenza europea e la prospettiva di una normalizzazione dei tassi di interesse americani, insomma qual è secondo lei un atteggiamento corretto nei confronti di questo mercato? L'atteggiamento corretto è quello di avere un portafoglio obbligazionario con una durata finanziaria, quindi con una scadenza tutto sommato contenuta. Noi suggeriamo dei portafogli con una durata finanziaria non superiore ai 3 anni, quindi questo significa accorciare di molto le scadenze, soprattutto per chi ha molto reddito fisso, ed eventualmente cercare di aumentare un po' la redditività del portafoglio inserendo dei fondi che sono specializzati ad esempio sull'obbligazionario a yield, quindi obbligazioni però con un merito di credito molto basso, oppure anche obbligazionario dei paesi emergenti, quindi sostituire il rischio durata finanziaria delle obbligazioni di Stato con il rischio di credito, però farlo esclusivamente attraverso i fondi che sono più diversificati. Io ringrazio Emanuela D'Onofrio per essere stata con noi, ho concentrato l'intervista con la dottoressa D'Onofrio in questa prima parte perché deve lasciarci, però insomma abbiamo avuto delle indicazioni molto concrete su come affrontare il possibile scenario che si manifesterà nelle prossime settimane. Grazie e buona giornata. Buona giornata. Grazie mille. Anche voi. 800 24 00 24, intanto il numero verde a vostra disposizione, messaggi al 349 238 6666, potete anche seguirci su Facebook. Brava, infatti non ricordiamo mai il nostro social network, invece è molto frequentato, bazzicato dai nostri amici ascoltatori e ci scrivono tantissime considerazioni anche attraverso i messaggi privati. Giovanni Brambilla, vengo a lei. Allora, sì, chiedo anche a lei un commento su questo accordo, se le piace o non le piace, per quanto possa essere, come dire, tenuto in considerazione un nostro giudizio su questo accordo, poi però voi siete degli investitori naturalmente, quindi anche il vostro applauso. Queste notizie a metà fra la finanza e la politica che arrivano a Bruxelles, appunto, il vostro applauso appunto devono averlo. Peraltro, parlavamo prima della Banca Centrale Europea, va segnalato che oggi c'è questa teleconferenza del Consiglio Direttivo, del Consiglio Esecutivo della BCE per discutere dei fondi di emergenza ELA per le banche greche. Allora, da che cosa vuole partire? Che cosa l'ha colpita di più delle trattative estenuanti delle ultime ore di questo weekend di fuoco? Tutto già scritto secondo lei oppure qualche cosa ha sorpreso, ha colto di sorpresa anche voi operatori? Ma direi che di grosse sorprese rispetto a quelle che erano state le reazioni dei mercati tra giovedì e venerdì. Non ce ne sono stati, i mercati stavano già scommettendo su un buon esito dell'accordo. Forse la sorpresa riguarda il fatto che è un accordo forse ancora più penalizzante, almeno a detta dei quelli che sono dentro la materia, più penalizzante per la Grecia rispetto a quello che sembrava essere l'accordo che precedeva il referendum. Direi che, per usare un gergo cestistico, l'Europa è riuscita a segnare la bomba da tre punti a fil di sirena, perché in effetti da un punto di vista politico sarebbe stata una sconfitta irrimediabile per l'Europa l'uscita della Grecia dal contesto europeo. E quindi da questo punto di vista insomma sono tutto sommato soddisfatto. Come investitore credo che la situazione non sia del tutto da mettere alle spalle, mi aspetto. Ecco, ci dica un po' quali altre incognite potrebbero nascondersi dietro l'angolo e che quindi dobbiamo tenere in considerazione come piccolo risparmiatore, su che cosa mantenere un po' di allerta. Ma come piccolo risparmiatore il rischio potrebbe essere quello di avere un po' di altalena ancora, quindi ancora un po' di volatilità, per il semplice fatto che non mi aspetto che i greci eseguano in maniera diligente tutto quello che l'Europa imporrà e soprattutto nei tempi in cui l'Europa lo sta imponendo. Per cui è probabile che si possano succedere una serie di notizie, magari un po' più negative sull'andamento delle riforme, sulle proteste che possono esserci da parte del popolo, che in effetti, io fossi un greco mi sentirei un po' preso in giro dal governo, nel senso che è stato proposto un referendum, è stato votato un no alla ricetta europea e poi si va ad accettare una ricetta ancora peggiore. Quindi ecco, da questo punto di vista forse quello che il popolo greco potrà manifestare, e non solo il popolo greco ma anche magari all'interno dello stesso partito di Tsipras, quindi un po' di situazioni difficili da gestire anche internamente, che potrebbero in effetti, quindi anche un po' la scontentezza, l'umore del paese è da tenere in considerazione. No, qualche tensione sociale in sostanza non è da escludere anche nelle prossime settimane. Nicola, non so se ti vuoi cimentare in un commento di finanza politica. Io non sono un commentatore politico e lungi da me l'idea di analizzare una situazione sociale che non conosco, però io rilevo attraverso le parole di Adriana Cerretti, che conosce la politica europea da molti anni, che le misure che sono state imposte con questa durezza draconiana nei confronti di Atene e del popolo greco sono misure che trascendono una questione puramente di ordine economico, ma che sconfinano in una visione di ordine politico. Tutti i commentatori rilevano che dietro questa decisione così dura di porre Atene con le spalle al muro ci sono anche scontri di carattere politico all'interno dell'Unione Europea, in visione anche in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali che si terranno tra l'autunno e l'inverno in Spagna, in Portogallo e in Irlanda. Quindi si vanno a sommare fattori di carattere economico e finanziario, perché indubbiamente Atene non è stata fino ad oggi un esempio di capacità riformatoria, E si vanno a sommare però anche questioni di carattere politico che sono interne anche ad altri paesi, non ultima la Germania. Allora, intanto volevo ricordare che Grecia a parte, che non è certo un tema di secondo piano, ci sono anche altri appuntamenti importanti questa settimana che dovremo monitorare. Poi nella seconda parte, dalle 11.30, faremo insieme a Nicola Borzi e a Giovanni Brambilla il focus invece sul mercato cinese, che è l'altro grande spettro, chiamiamolo così, che si agita sui mercati internazionali, anche se lì c'è stata messa una toppa dal governo che ha messo in campo delle misure per arginare questo crollo che stava avvenendo sul mercato azionario. È ripresa la stagione delle trimestrali statunitense e nei giorni prossimi tocca rassegnare i dati a tutti i colossi bancari e finanziari, dopo che ha iniziato come sempre Alcoa, il gigante dell'alluminio, settimana scorsa. Giovedì c'è un direttivo ufficiale invece della Banca Centrale Europea, è un appuntamento molto importante per il ruolo che la BCE ha giocato in questa crisi greca, ma anche perché si potrà fare un punto sul forse quantitative easing che è in campo da marzo scorso e che ha permesso, grazie a questi acquisti che la BCE sta facendo sul mercato obbligazionario, di arginare probabilmente effetti più dirompenti della crisi greca. Tra l'altro, tra poco abbiamo anche un'asta, anzi dovrebbe essere già stata effettuata, del Tesoro italiano, che oggi metteva sul mercato 7 miliardi e mezzo di titoli di Stato di BTP a scadenze diversificate. Non ho ancora il risultato, ma naturalmente saremo pronti a darlo in diretta non appena arriverà. Nel frattempo forse... Allora, sono le 11 sì. E quasi 29. Non cambiamo tanto argomento, no. Per la verità. Però cambiamo pagina, dai. Facciamo un flash sull'andamento in questo momento della borsa, tra poco. Cuore e denari. Occhi neri, assoluti e sinceri, occhi amati e sognati, occhi... Promossi anche se non a pieni voti, giovani adulti, bocciati bambini e anziani. Il giudizio arriva dalla Commissione Difesa Vista, che torna anche quest'anno a dare un voto agli italiani in materia di protezione. Sono ancora troppo pochi gli italiani che proteggono in modo adeguato gli occhi dalla luce solare. Soltanto l'11% dei giovanissimi e il 10% degli over 50 utilizza lenti protettive con regolarità. Addirittura il 60% dei piccoli, fra i 2 e i 6 anni, non ha mai inforcato un occhiale da sole, benché gli occhi degli under 15 siano i più delicati e bisognosi di uno schermo ad hoc e di qualità. Oggi insieme al nostro esperto sceglieremo gli occhiali da sole, ma parleremo soprattutto degli effetti che la luce solare ha sui nostri occhi, per individuare quale parte del nostro occhio può essere stata danneggiata o messa in difficoltà. 800 24 00 24, adesso subito riprendiamo il tema portante di Cuore Denari insieme a Deborah sulla situazione calda calda della Grecia, ma non solo. Sirtaki cinese, è proprio una musichetta cinese che ci introduce al prossimo argomento, un po' come se noi avessimo già archiviato anche la questione greca per andare adesso invece ad analizzare l'altro tema del quale si è discusso molto nell'ultima settimana, perché questa Cina del mercato azionario, che aveva corso non tanto, tantissimo direi, una corsa folle, si è bruscamente fermata appunto questa corsa nelle ultime settimane, al punto che poi è dovuto intervenire in maniera molto rigida il governo per arginare questo crollo del mercato. Cosa è successo? Come si intreccia quella questione anche con la questione europea e greca, e anche alla luce di questo tema che è molto lontano da noi, ma siccome stiamo sempre raccomandando agli investitori e risparmiatori... Ma la Cina è vicina. Il microfono pure. Sì. No, siccome raccomandiamo, Nicoletta lo sa sempre, di diversificare i nostri investimenti, di andare magari a cogliere le opportunità che ci sono su questi mercati così lontani, ma che hanno delle grandissime prospettive di crescita, sia per linee esterne, come è successo per la Cina negli ultimi anni, e poi come ha deciso di fare su linee interne, e invece poi vediamo che questi mercati possono essere anche protagonisti di scivoloni molto consistenti e così a bruciapelo in maniera inaspettata. aspettata. Allora chiedo subito un commento a te, perché è su questo che punta il tuo commento sul Sole di stamattina, Nicola Borzi. Alcuni rischi per chi punta sul rimbalzo cinese, un rimbalzo che è iniziato a metà della scorsa settimana, sì, dopo l'intervento del governo, ma prima insomma c'era stato un arretramento molto forte. Ma noi abbiamo utilizzato degli indicatori che sono presi dall'industria dei fondi, analizzando gli afflussi o i deflussi netti sul mercato azionario cinese di Shanghai, titoli di categoria A, e abbiamo visto che la scorsa settimana ha segnato il record assoluto a livello storico di afflussi, quasi 14 miliardi di dollari sono entrati direttamente, molto probabilmente attraverso ETF, e questa questione è sembrata agli osservatori un intervento diretto, diciamo, di grandi istituzioni per sostenere il mercato. In realtà il mercato nelle sedute precedenti aveva perso un terzo della sua capitalizzazione, in parte recuperata poi nelle ultime due sedute della scorsa settimana, e aveva bruciato un valore che pari più o meno alla metà dell'intera capitalizzazione della Borsa di Londra. Quello che ci preme sottolineare cos'è? Che il mercato è attualmente, secondo gli analisti, ancora caro in termini di multiplo PE, price earning, rispetto a un dato, diciamo, sostenibile. Il rapporto prezzo utile, che è praticamente, esatto, un parametro su cui si basa il giudizio delle società, esatto, quotate. È ancora caro in una misura che alcuni situano tra il 10 e il 15%, però nel momento in cui la fase, diciamo, di volatilità più alta di questo mercato dovesse placarsi, questi prezzi potrebbero segnare un possibile livello di ingresso, cioè un livello attraverso il quale entrare sul mercato. Ora è chiaro che entrare sul mercato di questo genere presuppone competenze, capacità di tolleranza al rischio, tutta una serie di situazioni, anche diversificazione di portafoglio, che non sono alla portata del piccolo risparmiatore, per cui chi volesse eventualmente cercare di sfruttare l'onda di rimbalzo di un mercato di questo genere, sapendo che comunque le prospettive in lungo periodo sono sicuramente di un rafforzamento vista l'importanza della Cina, lo potrà fare attraverso alcuni strumenti, e questi strumenti sono sicuramente dei fondi comuni di investimento oppure degli ETF specializzati. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione, avete ancora qualche minuto di tempo se volete intervenire sui temi di questa mattina. Mercati finanziari in quest'estate 2015, tra la questione di Atene e adesso ci abbiamo aggiunto anche quella di Shanghai, che non è certo di poco conto. A come A, e quindi risaluto Giovanni Brambilla, direttore investimenti di questa SGR, di questa società di gestione del risparmio indipendente, ha pubblicato, me lo hanno mandato proprio nelle ultime ore, questo piccolo report appunto sull'altalena cinese. Giovanni Brambilla spiega come si possono appunto argomentare questi bruschi movimenti a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, ragionando sul fatto che la borsa cinese è molto complicata, è composta di due indici, perché c'è l'A e il B, quello sul quale possono investire solamente gli investitori cinesi, e quello che invece è reso disponibile agli investitori internazionali. Io naturalmente devo sempre molto semplificare le questioni, Brambilla, però poi la seconda parte del vostro rapporto indica come ci stiamo muovendo noi, quindi voi come società, e cosa aspettarsi nel prossimo futuro. Possiamo dare i punti cardine appunto di questa vostra analisi per metterla a disposizione dei nostri ascoltatori che magari hanno messo una fettina del loro risparmio anche sul mercato cinese. Partirei dall'ultima questione, cioè quella degli indici, perché c'è questa caratteristica del mercato cinese, cioè gli indici domestici, quelli che hai menzionato Deborah, A e B shares, che sono indici dove fino a qualche mese fa, ma ancora oggi prevalentemente, sono indici per investitori cinesi, per investitori domestici. Solo negli ultimi mesi c'è stata un'apertura, seppur dosata da parte del governo cinese, anche all'entrata di investitori stranieri. Poi c'è l'indice di Hong Kong delle azioni cinesi, che invece è un indice per investitori internazionali e non per investitori cinesi. Anche qui negli ultimi mesi c'è stata una piccola apertura per gli investitori domestici, ma ad oggi è prevalentemente un indice per investitori stranieri. Perché ho voluto fare questa premessa? Perché è vero che gli indici domestici cinesi, A e B shares, sono molto cari, ma è altrettanto vero che l'indice delle H shares ad Hong Kong non è altrettanto caro. Ci sono società che hanno il cosiddetto dual listing, cioè che sono quotate sia nel mercato A e B shares domestico, sia nel mercato H per gli internazionali, che hanno prezzi a sconto come azioni H anche nell'ordine del 45-50%. Questo cosa significa? Che possiamo investire sulla stessa azienda, quindi con gli stessi fondamentali, ad uno sconto del 45-50%, quindi con delle valutazioni che sono dimezzate. Però diciamo, intanto dico subito che per il piccolo risparmiatore reperire queste informazioni è complicatissimo, per cui diciamo lascerei perdere, delegherei tutto ad un investitore professionale. Questo tanto per dare una raccomandazione che può apparire banale, ma data la come dire, la condizione molto complicata che lei ci ha spiegato, mi sembra il minimo sindacale suggerire questo. Allora, detto questo, quindi diciamo, sulle azioni H noi siamo intervenuti sulla debolezza per accumulare posizioni, perché da un punto di vista fondamentale è molto conveniente. Sulle azioni A e B non lo abbiamo fatto perché non è conveniente, perché essendoci questa disparità di valutazioni stiamo comprando quelle che sono a sconto. Poi se il gap negli anni verrà chiuso perché le H shares andranno alle valutazioni delle A o delle B o viceversa, però sicuramente oggi conviene stare certo. Senta, Brambilla, no, che devo andare verso la conclusione, siccome vorrei proprio concretizzare con qualche indicazione pratica per i nostri ascoltatori. Ci dicono sempre che quando mettiamo un po' dei nostri soldini su mercati come questo, dobbiamo avere la pazienza di starci molto a lungo, perché sono degli investimenti a lungo, lunghissimo termine, no? Dobbiamo avere la pazienza naturalmente di seguire la crescita cinese, che ci ha riservato molte sorprese positive negli ultimi anni, poi ha avuto anche degli stop significativi, almeno secondo i loro parametri, perché crescere del 7-8% in termini di PIL per loro è poco significativo, ma insomma per noi invece è un miraggio. Detto questo, siccome dobbiamo avere pazienza, poi però quando il mercato storna e scende, lo fa in maniera abbastanza repentina, come è successo nel mese di giugno, ecco, un andamento di questo tipo suggerisce al piccolo risparmiatore di adottare che tipo di precauzione quando vuole investire sul mercato, su un mercato come questo? Credo che la precauzione migliore sia sicuramente pazienza, perché su questi mercati c'è molta più volatilità. E la seconda cosa è un metodo, cioè il mercato cinese viene da un periodo, anche quello H, anche quello delle H shares, di un periodo di salita molto importante, e quindi vale la pena nelle fasi di salita rinunciare un po' di ulteriore profitto andando a ridurre un po' le posizioni. E quindi senza porsi il problema sto vendendo e poi il mercato salirà ancora. Sto vendendo perché io ho realizzato dei profitti e quindi li porto a casa. Nel momento in cui li ho portati a casa, se il mercato fa degli storni, come è successo di recente, ho la possibilità di rientrare a prezzi più bassi. Se così non fosse, ho comunque sempre una posizione più piccola rispetto a quella che è ante la presa di profitto, però sempre una posizione che mi permette di poter continuare a seguire un po' la crescita del mercato. Però, insomma, questo secondo noi esatto. È il suggerimento principale. E soprattutto stiamo esatto, stare lontano dal fai da te, perché questo non è un mercato per autodidatti. Assolutamente. Grazie a Giovanni Brambilla, direttore investimenti di Acomea. E insomma, mercati estivi 2015, non quelli di Papiniano, di che vale altra piazza, non lo so, ma tra Atene e Shanghai monitoriamo ancora questi due argomenti, perché certamente occhi aperti, la cronaca ce lo imporrà. Piazza quella di Atene, occhi aperti ma con gli occhiali da sole, perché là il sole picchia. Certo, quando? E di questo parleremo nella seconda parte di Cuore Denari. 800 24 00 24, se volete intervenire, vi stiamo aspettando. Cuore e Denari. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, come dolce sognare, abbracciato con te. La pelle si abbronza, gli occhi lacrimano, si arrossano, si danneggiano e insomma non sono attrezzati per resistere alla luce del sole, a differenza della pelle, e non hanno meccanismi di difesa. Quindi, cari amici, dobbiamo pensarci noi, ed è quello che faremo oggi con l'aiuto del dottor Francesco Loperfido, responsabile degli ambulatori di oftalmologia generale dell'unità operativa di oculistica dell'Istituto Scientifico San Raffaele e consulente oftalmologo della Commissione Difesa Vista. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno a tutti quanti. buongiorno. Dottor Lo Perfido, dimmi le ragioni del tuo agire e se ne sarò persuaso le seguirò. Questa frase attribuita ad Aristotele ci porta a fare una considerazione molto semplice, no? Sì, nonostante tutti i richiami, molti italiani ancora non proteggono in modo adeguato i loro occhi, evidentemente alle loro orecchie non sono arrivati messaggi in grado di convincerli e di persuaderli. Ci proviamo oggi, ma intanto chiediamo ai nostri ascoltatori da casa di intervenire raccontandoci le loro esperienze, perché dall'esperienza degli altri non sempre si impara, ma un aiuto può arrivare. Quindi 800 24 00 24. Intanto, dottor Lo Perfido, lei oggi ha questo compito molto difficile di aiutarci a capire perché noi dobbiamo proteggerci dal sole anche quando il sole non ci dà fastidio. Ce la fa? Accetta la sfida? Assolutamente sì, anche perché finora si è parlato come occhiali da sole come moda. In questo momento invece parleremo come gli occhiali al sole, come necessità. Certo. E questa è già un'anticamera forse fondamentale al nostro discorso. Proprio per un investimento di benessere. Dottore, proviamo allora a convincere i nostri ascoltatori, iniziando a dire che la natura non ha dato agli occhi filtri né meccanismi di protezione, a parte la possibilità che noi abbiamo di chiudere o socchiudere gli occhi, ma non è la stessa cosa, no? A differenza invece della pelle, che quando è baciata dal sole si abbronza perché produce melanina, che, lo ricordiamo, a noi piace molto perché regala questo colorito ambrato, ma in realtà è un meccanismo di protezione che i nostri occhi non hanno, è corretto? In parte, perché in realtà la melanina fa parte anche di uno strato della nostra retina, sì. Quindi soggetti per esempio biondi, quindi occhi chiari, hanno meno melanina di un soggetto con gli occhi scuri. Certo. Quindi già questo è una fonte di protezione dell'occhio rispetto a chi ne viene meno protetto. E questo giustifica le differenze di protezione tra una razza e l'altra all'esposizione del sole. Dottore, la Commissione Difesa Vista, di cui lei è consulente, ha lanciato proprio pochi giorni fa il solito, metterei, allarme estivo, perché si ripete ogni anno, sottolineando come l'esposizione prolungata impropria degli occhi ai raggi ultravioletti e alla luce blu provoca ai nostri occhi danni acuti e cronici. Allora, di quali rischi stiamo parlando? Ma ci sono quelli acuti, immediati, un'esposizione eccessiva agli UV e in alcuni casi anche alla luce blu, soprattutto in montagna, oltre che al mare, possono determinare anche delle cheratiti attiniche o delle cheratocongiuntiviti, cioè infiammazioni non solo della congiuntiva, cioè della parte bianca del nostro burro. Mi piace quando parla semplice, perché noi dobbiamo ritrovarci. E oltre anche della cornea, quindi che a questo punto, che è la prima lente del nostro occhio, che subisce un processo di disidratazione. La cornea non è vascolarizzata, ma altamente innervata. Quindi qualsiasi momento di disidratazione o di abrasione corneale comporta dei dolori anche molto elevati. Quindi i segnali, i sintomi sono occhio rosso, bruciore, allora, lacrimazione, ci descriva bene. Fondamentalmente abbiamo innanzitutto un dolore molto, molto imponente. L'occhio è iperemico, quindi molto arrossato, sì. E soprattutto un bruciore accompagnato da lacrimazione. Molto spesso in questo atteggiamento il primo momento più istintivo di un paziente è quello di stropicciarsi gli occhi, che è la cosa peggiore che uno possa fare, perché così facendo strofina col dito sulla palpebra e la palpebra crea ulteriori abrasioni sulla superficie corneale. Invece che cosa bisogna fare? Assolutamente sciacquare gli occhi immediatamente, questo per idratare il più possibile l'occhio, e a questo punto se ha la possibilità di andare in un centro di oculistico o in un pronto soccorso, verificare che non ci siano delle abrasioni della cornea, quindi delle sofferenze profonde, e a questo punto si parte con delle terapie, con dei colliri, fondamentalmente con lacrime artificiali, in alcuni casi accompagnati da antibiotici, in rari casi anche da cortisonici. E comunque occhiali scuri? E comunque occhiali scuri. Per di occhiali questo... parli scuri. Scuri è un modo di... Cioè, è scuri e non si può dire solo scuri, perché anche il colore della lente per alcune persone può fare la differenza. Ma continuiamo, dottore. Ci sono anche dei danni d'accumulo, diciamo così. Ad esempio negli ultimi anni si registra un aumento di cataratta anche tra le persone giovani, come a dire che oltre agli anni sul cristallino pesano anche le ore di sole non adeguatamente protette. Quali sono i segnali che ci fanno capire, che fanno capire ad una persona giovane, perché non si pensa alla cataratta intorno ai 40 anni, ma invece voi registrate sempre un numero in aumento di casi, quali sono i segnali che ci possono mettere un po' il sospetto e quindi far capire che la nostra, il nostro cristallino è in qualche modo in pericolo? Allora, il concetto è che l'opacità del cristallino è una cosa molto subdola, cioè avviene molto lentamente, quindi ci si accorge solamente nelle fasi più tardive. Invece, oltre al cristallino, ci sono altre due componenti che possono, dell'occhio, che possono subire delle alterazioni nel tempo di cui ci rendiamo conto un po' prima. Sì. Uno sono i corpi mobili vitreali. Il vitro è fatto al 90% d'acqua. Quando il vitro si disidrata può formare quei piccoli corpi mobili fastidiosi che uno... Vermicelli, bastoncini, mosche volanti, perfetto, serpentini, fiorellini. Tutti animali comunque. Ah no, anche molti, no, fiori, meno male. No, macchiolette. Perfetto. Vero, io ormai vengo a scuola da lei, dottor Lo Perfido. L'abbiamo laureata sul campo, no, ma in oftalmologia. Delle, quelle delle mosche volanti è un problema fastidiosissimo, sì, ti ricordi? Sì, te l'ho abbiamo già parlato tante volte. E quindi anche il sole può essere una delle componenti a determinarlo. Oltre a questo ci sono anche dei problemi a livello maculare. Si ha una apoptosi delle cellule retiniche nel tempo. Che significa? Significa una morte lenta, un'alterazione del metabolismo della vita di una cellula, sì, che quindi tende a morire negli anni, sì, e questo è un'anticamera alla degenerazione maculare. I segnali quali sono? All'inizio si può avere un abbassamento del visus oppure una fotofobia più intensa, mentre nelle fasi più tardive soprattutto si può avere una visione deformata o distorta, a secondo se siamo di fronte a una maculopatia secca oppure umida. Allora, abbiamo i nostri ascoltatori, Deborah, facciamo un giro di telefonate. Cominciamo immediatamente, andiamo a Pordenone, cominciamo, abbiamo proprio due estremi d'Italia stamattina. Marianna, benvenuta. Sì, pronto, buongiorno signore, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei. Sì, dalla regia mi dicono di stringere, fanno quel segno con quella manina, Marianna, lei non la vede, ma faccia la domanda, poi il dottor Lo Perfido ci pensa e le risponde dopo il GR, vada. D'accordo, niente, mi è stata diagnosticata una pressione oculare. E quindi devo prevenire il glaucoma. Ho fatto recentemente anche un esame di perimetria. Sì. Allora, niente, cioè, quindi vuole indicazioni su questo indicatore, sì, molto, molto, molto importante. Grazie Marianna. Non aveva mai sentito, invece la pressione oculare è un indicatore importantissimo della salute dei nostri occhi e della nostra vista. Ne parliamo subito dopo il GR. Per qualunque fastidio avvertiate della luce non, comprese le macchie, vermicelli, topolini. Noi siamo qua, 800 24 00 24. Impareremo anche ad acquistare l'occhiale da sole giusto per noi, non alla moda necessariamente, ma giusto per i nostri occhi. A tra poco. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione Cuore e denari. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai! E vai, e noi in questo lunedì parliamo di occhi e di occhiali da sole, vanno indossati, ben calzati sul naso, invece spesso finiscono in testa portati a mo' di cerchietto, Deborah, o fascia per capelli anche da chi i capelli li ha rasati a zero, e vanno fatti portare anche dai nostri bambini. Ne parliamo oggi insieme al nostro esperto, il dottor Francesco Lo Perfido, responsabile degli ambulatori di oftalmologia generale dell'unità operativa di oculistica dell'Istituto Scientifico San Raffaele, consulente oftalmologo della Commissione Difesa Vista. Abbiamo invitato i nostri ascoltatori, il dottor Lo Perfido, a dire che cosa, qual è il disturbo che avvertite in questo periodo. Perché? Perché spesso non lo mettiamo in collegamento con un'esposizione non adeguatamente protetta o non protetta nel modo giusto al sole. Ci sono dei un po' come succede con la pelle, no? Alcune patologie cutanee migliorano, altre peggiorano, altre ancora hanno un effetto solo temporaneamente positivo con l'esposizione solare, e la stessa cosa può avvenire per problemi visivi. Prima del GR, quindi, continuate a raccontarci come vedete, se siete sensibili ai raggi solari, se anche al loro semplice riflesso, al riverbero, avete avvertite bruciore, lacrimazione, se vi sembra di vedere meno bene dopo essere stati a lungo esposti al sole, se vi sentite gli occhi rossi, secchi, avete prurito, se vedete meno bene la notte, insieme al dottor Loperfido poi sceglieremo gli occhiali giusti per voi. Dovete dirci anche se avete un disturbo visivo, perché il colore conta, ma il dottor Loperfido ci diceva attenzione, conta anche la montatura, e non si riferiva alla moda. Forse quest'anno vanno tondi, mi sembrava di leggere. Sì, devo guardare adesso meglio. Dobbiamo vedere se qualcuno ha delle notizie. 800 24 00 24. Intanto dottor Loperfido, pressione oculare, io mi sono sbilanciata dicendo è un indicatore molto importante della salute del nostro occhio. Sì, lo è. La pressione normale viaggia tra i 10 e i 20 mm di mercurio, quindi quando una pressione è elevata, quindi supera questi valori, può determinare sia un danno campimetrico, quindi un campo visivo che si restringe, e successivamente un abbassamento dell'acuità visiva. Bisogna capire se è un glaucoma acuto o cronico, ad angolo aperto o ad angolo stretto, quindi vanno fatte varie indagini, e soprattutto va vista anche lo spessore corneale, perché è uno degli indicatori di quanta resistenza ha l'occhio nei confronti della pressione interna. Mm-hmm. Quindi sono dei valori importantissimi da non trascurare. Dottor Loperfido, diamo un'indicazione: chi e a partire da che età deve misurare la pressione oculare? La pressione oculare va misurata, diciamo, da sicuramente, a meno che non siamo di fronte a un glaucoma congenito, cosa che è estremamente rara, di solito va misurata dai 30 anni in su, a meno che non ci siano già delle familiarità al glaucoma, e quindi soggetti che familiarmente hanno già la pressione alta per una struttura particolare dell'occhio. Però è l'occasione per fare sempre una visita oculistica, e dico oculistica perché va rilevata giustamente la pressione, il fondo dell'occhio, il nervo ottico, che molto spesso soffre per una pressione elevata. Dottor Loperfido, abbiamo Oscar che ci chiama da Genova, e poi andiamo Deborah a Pietro d'Andria. Benissimo. Quindi abbiamo ripristinato il ping pong nord-sud, nord-sud. Abbiamo anche il nostro quizzettone, se lo teniamo un po' in sospeso. Ottimo. Oscar, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. La mia domanda è rivolta al tipo di occhiale da usare per come filtro solare, diciamo così. Intanto so che qui a Genova ci sono centri di un certo rilievo anche per la riabilitazione eventualmente, ma ho sentito parlare di filtri azzurri non adatti. Meglio quelli verdi o marroni. Quindi anche Oscar ha sentito dire che il colore della lente è importante, non è solamente un gusto personale. Quindi lei vuole sapere se queste lenti azzurre possono danneggiare l'occhio invece che proteggerlo. Dottor Loperfido. Soprattutto alterano la qualità del colore. Quindi per esempio alla guida non vanno assolutamente bene i filtri azzurri, perché distorcono e alterano la capacità di percepire i colori e soprattutto il paesaggio intorno, e soprattutto perché un abbattimento di una certa frequenza di UV non avviene. Quindi assolutamente do ragione all'ascoltatore in cui la lente da prediligere è il marrone, soprattutto nei miopi, e sulla frequenza del verde o del verde grigio nei confronti dei soggetti ipermetropi. Se poi a questa lente si vuole aggiungere un trattamento antiriflesso o in alcuni casi una lente polarizzata, soprattutto in un ambiente di acqua, questo non è altro che un beneficio in più. Ma sul polarizzato dovremo fare ulteriori precisazioni. Allora, dottor Loperfido, le faremo, ma intanto, dato che lei ha iniziato a dare alcune indicazioni partendo proprio dal colore della lente, vorremmo sapere dai nostri ascoltatori dove è stato il paese in cui è nato il primo occhiale da sole, giusto dottor Loperfido? Giusto. Perché lui è un raffinato esperto anche di storia degli occhiali, anche un ricercatore, è un ricercatore, e per quale motivo è stato inventato? Giusto. Formulata bene? Ok. Ottimamente. Noi la risposta la sa solo il dottor Loperfido, me l'ha suggerita. Veramente? 800 24 00 24. Dottore, ma se siamo all'ombra, la luce non ci dà fastidio, i miei occhi non lacrimano, non ho fotofobia, vedo bene, perché devo mettere gli occhiali da sole? Perché l'irraggiamento dell'UV non avviene solamente nei confronti della luce piena, ma anche in condizioni di ombra, perché abbiamo sia un UV diretto, sia un UV riflesso. Superfici come la neve, o come l'acqua, o come la sabbia possono riflettere una quantità di UV. Non solo, ma soprattutto quando il cielo è nuvoloso, l'irraggiamento dell'UV è molto più elevato e avviene in maniera randomizzata, e questo per gli occhi di più gente è portatore di fastidi e di fotofobia. Non dimentichiamoci che questo tipo di irraggiamento può portare anche a una oftalmodinia, cioè una cefalea da fotofobia, che a molte volte diventa fastidiosa e uno ricorre proprio a voler stare al buio per qualche ora. Allora, Deborah, dove andiamo? Avevamo anticipato? Avevamo in sospeso, sì, avevamo promesso a Pietro D'Andria che saremmo andati da lui, andate da lui. Pietro, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno dottor Loperfido. Buongiorno. Senta, la mia domanda è questa: io ho un occhio pigro fin dalla nascita, però ultimamente dall'occhio buono mi si è creato tipo delle mosche, che diciamo pare che ci sia un cristallino, non cristallino, diciamo all'interno dell'occhio è formato di acqua, per cui si è creata questa bolla, diciamo. Sì. Cosa devo pensare che un quest'occhio, cosa potrei fare? Ecco. Grazie Pietro. Dottor Loperfido? Bene, allora, quello di cui lei parla è sicuramente un'alterazione del vitreo. Il vitreo è una massa fluida e omogenea tra cristallino e retina, diciamo che è fluida come un miele, ma nel tempo può formare dei piccoli grumi come se fossero dei grumi di marmellata, e quindi lei li vede passare spostando il suo occhio, di solito andando verso l'alto, e poi si spostano lentamente e lateralmente. Questi corpi mobili di per se stesso danno sì fastidio, ma non danno danno. Sono dovuti al fatto che con l'età l'occhio tende a disidratarsi di una parte di questo contenuto di acqua di cui fa parte il vitreo, e quindi uno dei consigli è bere molta acqua. La seconda cosa, questi corpi mobili si possono verificare anche in conseguenza di urti o di traumi, anche di vecchia data, oppure per un'alterazione diciamo familiare dovuta all'età. È molto importante comunque verificare che siano solo corpi mobili e che non ci siano aderenze vitreali che, per quanto sconosciute nel tempo, possono creare delle trazioni sulla retina. Quindi è sempre importante capire che i corpi siano veramente mobili, perché meno mobili sono, più possono preoccupare. Quindi se lei li vede ma sono ancorati in un punto ben preciso, è un motivo per farsi controllare. Mentre se nuotano e se vanno un po', se viaggiano, li lasciamo andare. Un po' meglio. Li lasciamo andare sapendo almeno che in questo caso si può passare di fastidio ma non di danno. 800 24 00 24, davvero tante le telefonate dei nostri ascoltatori che ci raccontano un po' i loro disagi, la fotofobia, lacrimazione, rossore, ma anche chiedono consigli al dottor Loperfido. E quindi iniziamo a dare un consiglio sul colore delle lenti, lei l'ha già dato, ma sicuramente la regola numero uno è controllare, quando acquistiamo un paio di occhiali, la presenza del marchio CE, che tradotto significa evitiamo di comprare occhiali sulle bancarelle, imitazioni di marchi famosi, vero? Assolutamente, ma la cosa importante è proprio questo contatto direttamente con il mondo dell'ottica, in cui si va un po' a delineare qual è il tipo di occhiale che voglio, perché se io sono uno sportivo che va in montagna, oppure uno che va in vela, automaticamente richiederò occhiali che sono nettamente differenti. Ecco, per la vela va benissimo una lente polarizzata, mentre per la montagna vanno bene anche lenti alla melanina, che sono lenti molto scure che proteggono contro il 100% dell'UV e della luce blu. Così come ci sono delle lenti particolari, molto avvolgenti, e che proteggono non solo dal sole ma anche dal vento. Attenzione, gli occhiali più avvolgenti sono, più c'è il rischio che abbiano delle aberrazioni nella parte più curva. Quindi quella mascherina che uno pensa. Ma pensa, no, ma a parte che sono rimasta colpita dalle lenti alla melanina, perché non immaginavo che anche la lente avesse composizioni di tipo diverso, quindi pensavo solo che fosse questione di sfumature di colore, più o meno naturalmente professionali, però E quindi che succede? Che quando le lenti non sono perfette otticamente pure, una lente curva, quindi si dice a base 6, a base 9, quindi una lente curva, può dare delle aberrazioni. Questo è il motivo per cui dall'ottico si ha il meglio da questo punto di vista, e soprattutto si può avere una consulenza idonea per avere un occhiale adeguato. Non da meno anche le lenti fotocromatiche, che oggi sono delle lenti che cambiano colore da un ambiente scuro a un ambiente chiaro, alla guida sono un po' più lente nel passaggio tra galleria e luce piena, però sono delle lenti che possono essere estremamente valide. Allora, andiamo a Francesco che ci chiama da Milano, vediamo se possiamo aiutarlo nella scelta anche fotocromatiche, melanina, polarizzate. Poi c'è un trucchetto che lei ci aveva suggerito per capire se le lenti sono polarizzate, vero? Me lo ricordo. Se le lenti sono otticamente pure, quello sì. Otticamente pure, voi lo conoscete? Allora, Francesco, buongiorno. Buongiorno. Scusi, il mio problema è questo, pratico proprio degli sport acquatici che non sono la vela ma sono windsurf, kitesurf, dove il rischio di impatto è molto elevato, non si è in grado quindi di portare uno strumento di protezione ottica e peraltro il riflesso della luce sull'acqua è molto forte, tendenzialmente il giorno dopo soffro di bruciore agli occhi, rossore, certo, manifestazioni come di congiuntivite. Volevo sapere che cosa posso fare. Grazie Francesco, la domanda è molto bella perché certo che uno sport come il windsurf c'è un riverbero molto forte, quindi il giorno dopo Francesco è a pezzi, come si dice. Cosa si può fare? Allora, innanzitutto esistono anche degli occhiali, delle maschere, non solo subacquee, ma delle maschere anche di superficie, perfino graduate. Quindi abbiamo una maschera. Sono che... comode? No. Pensiamo a Francesco sul windsurf. Certo. Lei lo fa? Io non lo faccio, ma ho capito il problema. Infatti io ritengo che per ogni sport esiste un proprio occhiale, che non deve essere generico, e questo è un altro motivo in più di scegliere un occhiale adeguato. Esistono degli occhialini di protezione, quindi antiurto, molto piccoli, che sono quelli un po' da piscina, ma c'è la possibilità di averli graduati e anche filtrati, quindi ci sono delle aziende specializzate per questo, la prima cosa. La seconda cosa, visto la situazione di questo ascoltatore, sarebbe quanto mai opportuno partire già con delle lacrime artificiali da mettere prima, idratare l'occhio e subito dopo sciacquare abbondantemente e nuovamente ridratare l'occhio, perché sicuramente c'è un processo di disidratazione oltre che di fotofobia che gli può determinare queste frequenti congiuntiviti. Quindi, ma questo delle lacrime artificiali è un consiglio che possiamo dare anche a chi non fa windsurf ma si va a fare una giornata al mare, quindi sottopone gli occhi comunque a uno anche stress, montagne, oppure certo in montagna una bella passeggiata in alta quota magari può essere una luce fastidiosa. Direi di sì, anche perché le condizioni dell'occhio asciutto o in alcuni casi particolari asciutto sono le più varie. Non dimentichiamoci anche a chi usa lenti a contatto e che quindi soprattutto in quelle condizioni di mare o di vento particolare il processo tra evaporazione della lacrima e produzione va verso l'evaporazione, quindi in questo caso per esempio lenti giornaliere assolutamente, e idratare l'occhio in maniera costante, questo soprattutto perché granelli di sabbia anche insignificanti possono creare delle abrasioni corneali non indifferenti, e questo non è da sottovalutare. A proposito di lenti, cade a fagiolo, come il caccio sui maccheroni, Marco che ci chiama da Monza. Buongiorno, lenti, buongiorno. Lentine. Buongiorno Marco. Buongiorno, complimenti. Anche a lei. Grazie. Senta, io ho questo piccola cosa da chiedere al dottore. Io sono miope da 25 anni e adesso ne ho 30, no? Ho sempre portato gli occhiali e poi nell'adolescenza ho messo le lenti a contatto diurne. Adesso da 5 che sono con quelle di ortocheratologia, quindi di lenti a contatti rigide notturne, in modo da essere libero di giorno. E poi col lavoro che faccio era anche una questione di sicurezza, essendo giardiniere, quindi la polvere, i sassi, un po' di cose. Ecco, io adesso però è da 2 anni che di notte vedo veramente poco, le luci di notte poi non ne parliamo, il dottore sicuramente saprà di cosa sto dicendo, cioè tipo che vedo una luce e sembra un abbagliante. Ecco, io voglio sapere se l'ortocheratologia. Quelli che dicono bene, prendono lucciole per lanterne, no? Sì, ma anche lampioni. Sì, sì. Ecco, no, io volevo sapere se l'ortocheratologia per me andava comunque bene o se dovevo desistire, ecco. Ma questa è una domanda estremamente particolare, perché io non sono un totalmente favorevole all'ortocaratologia, anche perché questa pratica, a queste lenti che si portano la notte, sì, perché questa pratica, per quanto abbastanza diffusa, richiede innanzitutto una costanza enorme, il che perché basta non metterle per qualche tempo o metterle in maniera sporadica, perché uno dorme di meno e quindi le usa un po' di meno, che l'atteggiamento e lo spostamento della superficie corneale, perché di questo si tratta, non è mai così completa. E questo tipo di rapporto può andare bene sull'acuità visiva, quindi io riduco il potere diottrico della miopia, però ci sono altre componenti che soprattutto di notte vengono fuori, che sono la fotofobia, l'abbagliamento, il recupero dell'abbagliamento, e soprattutto in particolari momenti quando non tutta la miopia viene corretta completamente, una parte di miopia che durante il giorno riusciamo ad accomodare, di notte, perché la pupilla si dilata al buio, quelle minime parti miopiche non accomodate possono dar vita a tutti i disturbi che lei ha, assolutamente. Quindi qualche perplessità in più io l'avrei, io farei una mappa corneale per capire esattamente com'è la situazione corneale adesso e qual è il residuo miopico adesso, e poi in base a quello decidere di cambiare vita rispetto a questo tipo di atteggiamento notturno. Allora, dottor Lo Perfido, dalla regia non mi segnalano nessun ascoltatore che ha risposto, che qualcuno si è candidato per il domandone. Al 349 esatto. Qualcuno ha scritto, l'andiamo a recuperare? Allora, la prima risposta che è arrivata è: nasce per gli aviatori, dottor Lo Perfido. No. Niente. Un altro ascoltatore è andato ancora più indietro, credo, nel tempo. Sisto ci scrive: inventati per primi dagli Inuit per proteggersi dal riverbero della neve e del ghiaccio. Si sono scomodati un po' troppo gli ascoltatori nelle loro ricerche. Beh, se per questo ancora prima c'era Nerone con il suo smeraldo che si proteggeva gli occhi dal sole con lo smeraldo. Ma non è quello. Non è questa. Perché l'occhiale da sole nasce? Nasce in America negli studi. Perfetto, nasce negli studi cinematografici, quindi non è stato inventato per l'esterno ma per l'interno, perché le luci a carbonio o alogene fortissime portavano a cecità soprattutto chi elaborava appunto i filmati, e quindi automaticamente si è pensato a una lente molto scura come protezione negli studi. E allora, dato che l'hanno inventato e la ricerca ha fatto passi da gigante, mi raccomando, indossate gli occhiali, proteggete i vostri occhi. Chissà qual è stato il primo attore di Hollywood che poi li ha messi. Perché poi li cercheremo, tutti. Cercheremo anche lui. Grazie al dottor Lo Perfido. Prego. E se avete ancora dei dubbi, domande, scriveteci. Noi intanto ci sentiamo nuovamente domani alle 11. Ci salutiamo, ci sentiamo domani. Buona giornata.